parola del Signore rivolta al profeta Geremia contro i Filistei prima che il Faraone conquistasse Gaza. Così dice il Signore: ecco delle acque inondanti dal nord. Divengono qual fiume travolgente e travolgono il paese e quanto contiene, la città e chi abita in essa. Gridano gli uomini ed ululano tutti gli abitanti del paese. Per lo strepito scalpitante degli zoccoli dei suoi destrieri, per il fragore dei suoi carri, il fracasso delle sue ruote, non si volgono i padri verso i figli. Cascanti sono le loro mani a causa del giorno che viene per devastare tutti i Filistei, distruggendo a Tiro e a Sidone ogni residuo di aiuto. Sì, il Signore devasta i Filistei, il resto dell'isola di Caftor. È giunta la calvizie su Gaza, vien distrutta Ascalona. Asdod, resto degli Anachiti, fin quando ti farai incisioni? Poi, spada del Signore, fin quando non riposerai? Rientra nel tuo fodero, arrestati e taci. Come si riposerà se il Signore le ha dato ordini? Contro Ascalona e la pianura del mare, là l'ha convocata.